24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7 e 27 minuti, cari ascoltatori, eccoci qui in diretta 24 mattino, in diretta fino alle 9, come al solito. E il sondaggio che oggi lanciamo e che potete votare su radio24.it è il giorno della protesta in piazza per i giornalisti contro il disegno di legge sulle intercettazioni. Manifestazioni in tutta Italia, la più importante a Roma in piazza Navona. Vi chiediamo manifestazione che condividete. Secondo voi fanno bene i giornalisti ad andare in piazza a gridare contro quella che qualcuno definisce legge e bavaglio? Ne parliamo alle 8.30, ma certo questo è uno dei temi ben sviluppati dai giornali in edicola. In primo piano. Giovedì 1 luglio, le aperture di alcuni quotidiani. Il Sole 24 Ore sceglie il federalismo, al via il federalismo e la cedolare affitti. Tremonti esclude tasse sulla prima casa. Regioni all'attacco, la manovra è peggiorata. Anche il giornale punta al federalismo, ma a suo modo. Feltri consiglia ai politici spendaccioni, sprecano e piangono miseria. I governatori strillano, manovra insostenibile, noi abbiamo spulciato i bilanci di Emilia, Lazio e Campania, risultato si possono risparmiare milioni, a cominciare da caffè e dai dromedari. La Repubblica sulle intercettazioni, legge bavaglio a fine luglio, oggi va in piazza la protesta. La Stampa, intercettazioni si accelera, lodo Alfano per i ministri. Questa del lodo Alfano nuovo e anche l'apertura del Corriere, scudo più largo al Premier. Queste alcune delle aperture dei maggiori quotidiani. Come detto, io partirei dal tema anche del nostro sondaggio, vale a dire il giorno della protesta dei giornalisti contro il disegno di legge sulle intercettazioni. Intercettazioni che sono state calendarizzate dai capigruppo il 29 luglio. Il 29 luglio, quello che Fini ha definito un puntiglio, in realtà il commento di Stefano Folli, ma anche di molti commentatori politici del giorno, è che più che un vero puntiglio è un nuovo casus belli, così titola Folli nel suo punto quotidiano a pagina 19 del Sole, un vero e proprio casus belli tra Berlusconi e Fini, che può essere destabilizzante. Non convince, scrive Folli, il manierismo con cui viene ormai raffigurato il presidente della Camera, nelle vesti di un petulante bastian contrario impegnato a far dispetti quotidiani a Berlusconi. Nella lotta politica c'è posto anche per il colpo basso, ma nel caso delle intercettazioni il dissidio va molto al di là della rivalità tra Fini e il Premier. La verità, scrive Folli, è che la legge è ancora inadeguata e fonte di infinite polemiche. Si veda la relazione impietosa del procuratore antimafia Piero Grasso e anche il presidente della privacy, l'autorità della privacy, non ha risparmiato critiche e riserve. Emerge insomma il quadro di una norma che ha poco di liberale. È tutto da dimostrare che riesca a tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini, ma di certo ha diviso l'Italia come quasi mai nel recente passato. Il problema è che, dice Folli, conviene tutto ciò a Berlusconi? Certo, a lui conviene e non dispiace al Presidente del Consiglio la mobilitazione di magistrati e giornalisti, perché ripropone il solito schema, uno contro tutti, che in passato gli ha portato fortuna. Ma sullo sfondo si avvertono sordi brontolii. Le lacerazioni interne alla maggioranza non sono affatto risolte. L'anticipo al 29 luglio tiene forse di decapitare il lavoro preparatorio della Commissione Giustizia. Tanto è vero che, dice Folli, questa legge così dovrebbe passare solo con le fiducie, colpi di fiducia. Il gioco di Berlusconi vale la candela? Si chiede in conclusione Stefano Folli. A questo proposito il Sole, con Donatella Stasio, mette proprio a pagina 19 quella che è la relazione molto dura di Piero Grasso, il procuratore antimafia, su questa legge irragionevole, devastante, foriera di gravi disagi per gli uffici giudiziari, effetti gravissimi nella lotta alla criminalità organizzata, una legge incoerente rispetto alle politiche sulla sicurezza, che indebolisce gravemente l'azione di contrasto nei confronti di mafia e terrorismo e delle organizzazioni criminali non mafiose finalizzate allo spaccio di droga, le rapine, l'immigrazione clandestina, l'usura, la corruzione. Una legge che crea un buco clamoroso perché abolisce gli strumenti voluti da Giovanni Falcone per combattere questo tipo di criminalità organizzata. Allora, questo forse, a mio modo di vedere, è il vulnus più importante, non tanto le lenzuolate di intercettazioni sulle pagine dei giornali, ma è inquietante se il procuratore antimafia definisce questa legge così, cioè devastante per le indagini per contrastare la mafia e la criminalità organizzata. Come detto, visto che Fini ha criticato, dicendo è un puntiglio e si riaccende un pochino quello scontro mai sopito in realtà tra sottotraccia tra Berlusconi e Fini stesso, basta leggere insomma gli attacchi che sia Libero che Il Giornale fanno al Presidente della Camera. Per Libero, sulle intercettazioni Fini dà del matto a Silvio, quell'aggettivo irragionevole mettere il 29 luglio, dà del matto a Silvio. Mentre, guardate in prima pagina, Vittorio Feltri, ancora un editoriale contro il Presidente della Camera. Fini è una risorsa, ma per l'opposizione, questo è il titolo dell'editoriale. Feltri dice: guardate, non avrei manco iniziato questo editoriale, mi scuso in anticipo coi lettori per l'articolo che mi accingo a scrivere, anche perché la persona a cui mi riferisco è talmente permalosa da non sopportare alcuna critica. Indovinate a chi mi riferisco? Gianfranco Fini. Ci ha provato in ogni modo, forse vorrebbe provarci ancora. Questa sua ostinazione, però, nel voler entrare nel merito di un provvedimento si concilia col ruolo di Presidente della Camera? A me sembra di no. D'altronde non si era mai visto un suo predecessore fare altrettanto. Veniamo al nocciolo della questione. I capigruppo hanno fissato al 29 luglio, dopo la cosiddetta manovra economica, la discussione sulle intercettazioni. Lui, anziché prenderne atto, come avrebbe fatto chiunque al suo posto, si è inalberato, ha rilasciato un commento in linea con la tesi dell'opposizione. Calendarizzare a fine luglio il DDL è irragionevole. Ullalà! Perché è irragionevole, scrive Feltri, perché in estate fa caldo e discettare di intercettazioni provoca un aumento della sudorazione, perché i deputati non ci sono più con la testa, niente di questo. Fini legge nella richiesta dei capigruppo solo un puntiglio, ovvero il desiderio di fargli rabbia. E poi Feltri conclude, insomma, fa delle dichiarazioni che sono... che lo confermano come senz'altro una risorsa, ma del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori. Questo Vittorio Feltri sulla prima pagina del Giornale. Fini è una risorsa, ma per l'opposizione. Come detto, i giornalisti vanno in piazza. Nella prima pagina del Fatto, il Fatto Quotidiano in realtà punta, vabbè, la prima pagina, il titolo è "Pagano tutti per lui", cioè Berlusconi che si farebbe scudo di persone che sono il fratello Paolo Berlusconi, che finì in galera per tangenti al suo posto, secondo il Fatto. Brancher, corruzione, la pena la scontò Previti. Per mafia Dell'Utri si becca 7 anni, ecco gli eroi del Caimano. Vabbè, e c'è un Berlusconi che con, in una raffigurazione come dei burattini muoverebbe queste 4 persone citate, vale a dire il fratello, Brancher, Previti e Dell'Utri. In realtà Paolo Flores d'Arcais è molto duro in prima pagina sul tema intercettazioni e la manifestazione di oggi. Bavaglio, la rivolta di Piazza Navona, è venuto il momento di tornare in piazza. Quello di Berlusconi non è più solo un regime, è il governo di Mackey Messer, è il crimine che si fa Stato. E la legge Bavaglio è lo strumento per garantire ai delitti di regime, agli amici degli amici, impunità e opacità. Ecco perché Flores d'Arcais dice bisogna andare in piazza. In prima pagina del Manifesto, Norma Rangeri, il direttore, anche lei punta su questo colpo d'estate, sulla vicenda un'estate torrida segnata dai colpi berlusconiani contro la libertà di stampa, scrive Norma Rangeri. Manifestazioni di oggi che sono l'inizio, la battaglia sarà frontale, lunga, difficile, per noi del Manifesto più difficile perché impegnati sul doppio fronte dei bavagli e dei tagli. Siamo qui contro l'attacco berlusconiano ai giornali, contro una legge che nulla a che vedere con la difesa della privacy, ma seppure vincessimo su questa linea, scrive Norma Rangeri, alla fine il Manifesto è tra quelle testate autonome che rischierebbero di restare senza parole per i tagli alla legge sull'editoria. Dunque ripunta comunque su questo aspetto Norma Rangeli, direttore del Manifesto. Come detto, la politica si interroga su questo, cioè su questa manifestazione, ma anche, come detto, sull'apertura del Corriere della Sera. Vale a dire, starebbe rispuntando il lodo Alfano. Quel lodo Alfano che la Corte Costituzionale ha giudicato non conforme appunto alla Costituzione. Leggo a pagina 5 del Corriere: lodo Alfano, scudo totale a Premier e Ministre. Una nuova versione del disegno di legge costituzionale. E tra l'altro chi se ne fa promotore è il senatore Filippo Berselli, presidente della Commissione Giustizia, che ha presentato alcune modifiche al lodo Alfano per via costituzionale, correggendo insomma il testo originario del lodo Alfano, tenendo conto ovviamente di quegli aspetti che la Corte Costituzionale ha giudicato non compatibili con la Costituzione. Ecco allora che si riproporrebbe lo scudo. Ovviamente l'opposizione già dice sconcertante, Ghedini però dice l'opposizione fa il suo mestiere, ma le modifiche che i senatori ci hanno illustrato non sono altro che la trasposizione della sentenza della Corte Costituzionale. E c'è anche il consueto retroscena politico, firmato da Paola Di Caro in questo caso, sulla linea dura di Berlusconi: passiamo ai fatti, si adeguino, niente più mediazioni, nessun'altra snervante trattativa per arrivare al nulla col risultato che il giorno dopo è già pronto ad aprirsi un nuovo fronte. Per rilanciare la sua leadership, Berlusconi vorrebbe proprio questo, passare ai fatti, senza che nessuno si possa più mettere di traverso con volontà meramente ostruzionistica. Questo sarebbe il nuovo fronte di scontro con Fini. Ormai, dicevano dall'entourage del Cavaliere, siamo al momento della verità. O Fini e i suoi si adeguano e votano quello che viene deciso dalla maggioranza, o il loro gioco finisce qui e sono fuori dal partito. Dunque, non solo sulle intercettazioni, ma anche sul possibile nuovo lodo Alfano, ecco che si profila la tensione maggiore dal punto di vista politico. Ieri vi avevamo anticipato che sarebbe stato un giorno importante per il federalismo ieri, e infatti così è stato. Come dette l'apertura del Sole 24 Ore, al via il federalismo e la cedolare affitti. Ieri sono state presentate le linee guida. Il federalismo non costa né divide. Tremonti annuncia la cedolare secca, leggo a pagina 3 del Sole 24 Ore. C'è la foto con i ministri, messa proprio a pagina 3, i ministri che si occupano di federalismo, vale a dire Tremonti come ministro dell'economia, Calderoli delle riforme, della semplificazione, Bossi delle riforme, Fitto dei rapporti con le regioni. Non c'è il ministro Aldo Brancher in questa foto. E tra l'altro il Sole 24 Ore proprio lo mette nella didascalia, la squadra del federalismo, ma Brancher non c'è. Il ministro Brancher, non si è ancora capito ministro di che cosa. Sta di fatto che il giorno in cui si presenta il federalismo e c'è la foto con tutti i ministri che si occupano di questo, Tremonti, Calderoli, Bossi e Fitto, Brancher non c'è in questa foto. E allora uno ovviamente si pone delle domande. Come previsto, scrive Eugenio Bruno a pagina 3 del Sole, la tesi forte espressa nella relazione ieri di Tremonti è che la riforma non produrrà aggravi per le casse erariali. A costare invece è stato piuttosto un sistema di finanza pubblica che negli ultimi 40 anni, ha detto Tremonti, è cresciuto come un albero storto. Questa immagine dell'albero storto, della crescita della finanza pubblica, così è un'immagine che secondo me farà abbastanza strada, cioè perché è molto molto significativa e molto efficace, no? La finanza pubblica è cresciuta come un albero storto, sempre di più, ma storto per l'appunto. Tuttavia, questo è il punto su cui ci si aspettava qualcosa, ma è ancora troppo presto, fa sapere Tremonti, l'economia non ha fornito il numero forse più atteso, vale a dire i risparmi che la riforma porterà con sé. Per averli bisognerà aspettare tra luglio e settembre. C'è il commento positivo del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ieri era all'assemblea degli industriali di Napoli, a pagina 5 del Sole. Nicoletta Picchio spiega come la Marcegaglia, intervenuta non solo come presidente degli industriali ma anche come imprenditrice del nord, si è rivolta proprio all'imprenditore del sud dicendo vediamolo come una cosa positiva, non come una minaccia per il sud. Se sarà un buon federalismo e che avvicina i cittadini con chi governa, aumenta la responsabilità degli amministratori e dunque anche per il mezzogiorno potrà essere un'opportunità di crescita. Come detto, intanto le regioni mugugnano, vabbè, se volete perdervi un po' nelle bizzarrie anche di alcune regioni, il giornale mette appunto le spese di Lazio, Emilia, Campania e Sicilia, sono andati un po' a vedere nei bilanci, l'avvocato record di Bassolino per esempio ha fatto 1610 consulenze in 3 mesi. Questo a pagina 3 del giornale, 2 milioni e mezzo per comprare 20 carri gru. Quando le hanno comprate in campagna si sono accorti che erano troppo grosse per entrare nei garage. E vabbè, staranno un po' a prendere l'aria. Il PD Errani in Emilia Romagna grida allo scandalo ma compra i dromedari per il Sahara, un aiuto alle popolazioni africane che costa 20.000 euro. Vabbè, che poi compra i dromedari per il Sahara è efficace come immagine, ma 20.000 euro di aiuti alle popolazioni africane è un'altra cosa. Magari lì i dromedari sono fondamentali per la sopravvivenza. In ogni caso, sprecano e piangono miseria. Il giornale continua anche nell'inchiesta gli stipendi che pagate voi, e alla 16ª puntata oggi siamo al Ministero della Giustizia con l'elenco di tutti i dirigenti. Sono 42.000 i dipendenti del Ministero della Giustizia, 300 i manager. Il manager che guadagna di più, o meglio il dirigente che guadagna di più, questo dall'elenco che ho guardato molto rapidamente, è Bruno Bratt, magistrato di Cassazione, capo dipartimento, 283.399 euro, ma ci sono molti anche a 181.000 euro. Luigi Di Mauro, come cifre, certo, quello che guadagna di più, beato lui, Bruno Brattoli, come dirigente, 283.000 e spicci di euro. Oh, attenzione, attenzione, due notizie dal Parlamento. La prima ce la dice Gian Antonio Stella, a pagina 1, e poi segue all'interno del Corriere della Sera, rispunta il condono. Ebbene sì, dopo il tentativo di 10 giorni fa, fatto per tastare il terreno, così osceno da essere istantaneamente scaricato dallo stesso PDL, ecco che rispunta il condono presentato da 3 deputati, tutti vicini al chiacchieratissimo sottosegretario Nicola Cosentino, della serie Come volevasi dimostrare. Altro che di nuovi condoni non si parla assolutamente. 10 giorni dopo questa dichiarazione di Paolo Bonaiuti, scrive Stella, all'8ª commissione della Camera si discute una proposta di legge, disposizioni per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio al fine di contribuire alla ripresa economica. Il testo prevede, entro 6 mesi, sistemare gli arretrati delle sanatorie del 1985, 94 e 2003. Chi l'ha presentato sono Maria Elena Stasi, già prefetto di Caserta, Luigi Cesaro, proprietario immobiliare, deputato e presidente della provincia di Caserta, e Giovanna Petrenga, già direttrice della Reggia di Caserta. Così Gian Antonio Stella scrive, in aula rispunta il condono dei condoni. Questa la denuncia, mentre rispunta anche chi? Claudio Scajola, l'ex ministro che rimane parlamentare ovviamente. A pagina 15 di Libero ritorna Scajola. Enrico Paoli lo avvicina in Parlamento, scambia qualche battuta, dice con Berlusconi nessun problema, il rapporto è ed era e rimane di grande stima e fiducia reciproca. Qualcuno gli stringe la mano, un ex ministro del governo D'Alema gli avrebbe detto tu sei caduto in un trappolone, fuoco amico, dice Scajola, che attenzione, questa è la notizia, ha commissionato, secondo quanto risulta a Libero, 2 perizie giurate sull'appartamento romano, quello celebre in via del Fagutale con vista Colosseo, diventato la pietra dello scandalo, e secondo i tecnici il valore dell'immobile corrisponderebbe esattamente ai 610.000 euro dichiarati dall'ex ministro, che però non parla dell'inchiesta. Ho troppo rispetto per i magistrati, vedrete che faranno luce, ma ecco qui che ritorna Scajola, il quale dice voglio fare il parlamentare, essere presente alle sedute, e ha fatto questa perizia, ha pronte 2 perizie per valutare quanto vale la sua casa, chi lo sa. Così dice Libero. Ora il traffico e poi il casino, le polemiche, anche gli automobilisti incazzati per i rincari autostradali. In primo piano. Pedaggi è rivolta. Imprenditore e sindacati a una tassa su Roma. Leggo a pagina 2 del Messaggero. Il Messaggero ci apre perché questo tema ovviamente è molto sentito a Roma. Pedaggi no di Roma e rincari. Che t'ha fatto il sindaco di Roma a Levanno? Con una dichiarazione che, sapete, molto pacata, ha detto mettono un casello sul grande raccordo anulare, vado lì con l'auto e lo sfondo. Ora, come scrive il Sole 24 Ore a pagina 16 in uno dei 3 commenti che in genere ci sono oggi, molto efficace, dal titolo Quando sfonda la parolaccia, capiamo il nervosismo, bilanci periclitanti, tagli allo Stato incombenti, popolarità sul piano inclinato, tutte cose, caro sindaco Alemanno, che accorciano le frasi e le declinano all'indicativo. Questa frase, no? Se qualcuno mette un casello sul gra, lo sfondo con la mia macchina. Ora, qui il tema non è se e quanto sia giusto pagare per entrare in autostrada. Il punto è il come in questo paese si dice quel che è giusto o sbagliato. Il coglione elargito all'elettore di sinistra dal Premier, lo stronzo destinato dal Presidente della Camera che insulta gli immigrati, il vada a farsi fottere dedicato a un giornalista da un ex segretario di S. Tutto questo è lo zeitgeist del tempo che impone la parolaccia, l'espressione rubizza, il vernacolo che vira all'insulto. Ovvio il calcolo, mostrare la canotta come il boss di Dantan attira la gente, quella con 3G. Non è un caso isolato, l'elenco è lungo, non ci resta che constatare che l'Italia è diventata così. E allora Alemanno, per far capire che era contrario a questa cosa sul gra, dice: mettono un casello sul gra, vado lì con la macchina e lo sfondo. C'è da dire che il presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci, in un'intervista proprio al Messaggero, tranquillizza da questo punto di vista Alemanno dicendo: io posso solo dire che si pagherà sulla Roma-Fiumicino, un'autostrada dell'ANAS per la quale la manovra prevede l'introduzione del pedaggio. Chiede Umberto Mancini: vuol dire che ci sarà una tariffa per chi esce a Porta di Roma e una per l'aeroporto, tanto per fare un esempio? Certo, saranno tariffe modulate in base ai chilometri effettivamente percorsi, perché i pedaggi saranno modulati. C'è anche l'ipotesi di mettere nel prezzo del biglietto aereo il costo di percorrenza. Mentre per il grande raccordo anulare i romani corrono rischi? No, ribadisce Ciucci, nessun rischio, come scritto dal Messaggero, pagherà solo chi proviene da lunghe percorrenze e non chi si sposta in città attraverso il grande raccordo anulare. L'aumento delle tariffe poi sono previsti dalla legge e dalla manovra e gli incassi vanno a beneficio del bilancio dello Stato. Insomma, si pagherà sulla Roma-Fiumicino ma non sul grande raccordo anulare, dice Ciucci. Ma Alemanno, in maniera più efficace, è più efficace, ha detto: casello, lo sfondo con la macchina. È solo un piccolo sacrificio, così avremo strade migliori. Anche il ministro delle Infrastrutture Matteoli parla a pagina 9 del Quotidiano Nazionale: mi sarei evitato queste polemiche, questi attacchi sui balzelli, ma quello che chiediamo agli utenti è una sciocchezza rispetto ai vantaggi che avremo in termini di manutenzione delle strade dell'ANAS. Per esempio, fa degli esempi concreti Matteoli: se uno prenderà l'autostrada a Roma e esce a Milano con 500 chilometri pagherà 50 centesimi in più. Alemanno poi sul grande raccordo anulare sa tutto, sa che i romani non pagheranno un euro per attraversare tutti e 76 chilometri del raccordo, nemmeno per arrivare a Fiumicino. Gli aumenti scatteranno solo per chi si metterà in un'autostrada che sia verso Napoli, Firenze o L'Aquila, un euro in più, ad eccezione di quelle tratte che costano 2 euro o meno. In quel caso l'aumento sarà del 25%. Un altro esempio per far capire: se io vado da Roma a Settebagni e spendo 2 euro oggi, pagherò 2,50 euro. Se prendo Firenze Certosa ed esco a Firenze Sud, costo 40 centesimi, ne pagherò 50. Insomma, Matteoli dice: un piccolo sacrificio, avremo strade migliori. A proposito di strade, attenzione, perché questa notizia ce l'ha solo il Corriere della Sera, ma è molto popolare. Il presidente della Commissione Trasporti, Mario Valducci, che cosa propone? Troppi incidenti per la distrazione, via la patente dopo gli 80 anni. Mettere un limite all'età per la patente. 80, 85, di questo si può discutere, ma la questione va affrontata, dice Mario Valducci. Non hanno i riflessi adatti la proposta di mettere un limite di età alla patente. Che ne pensate? Anche questo è molto interessante. Trovate molto ancora del rapporto Stato-mafia, che però voglio un po' saltare oggi. Trovate tutto un po' in fotocopia. Dopo la sentenza dell'Utri, tanto ancora di commenti, rapporto Stato-mafia, anche su indagini che si sono riaperte sulla vicenda Borsellino, che metterebbero nel centro delle polemiche un super poliziotto, che peraltro è scomparso nel 2002, Arnaldo La Barbera. ma la vicenda è tutta molto complicata, la trovate ben spiegata per esempio sul Corriere della Sera a pagina 3 da Bianconi, oppure Attilio Bolzoni a pagina 6 e 7 di Repubblica, sempre quegli intrecci Stato e mafia. Mentre voglio andare a due citazioni finali, la prima è questa, è una vicenda di cronaca nera, io tutte le volte che leggo queste cose le devo leggere poi in rassegna stampa perché sono sconvolgenti. Uccide le due fidanzate che perseguitava, lo trovate su tutti i giornali a pagina 21 del Corriere, in questo caso anche sul Secolo XIX a pagina 5, cioè ha ammazzato due ex fidanzate, alla fine si è suicidato dopo una giornata di follia. Voleva, e ne aveva cercate altre due, cioè un uomo che aveva deciso evidentemente di come dire, cancellare tutto il suo passato sentimentale in una maniera così drammatica, ed era denunciato già 7 volte per stalking, aveva 7 denunce, queste donne alcune vivevano nel terrore, l'avevano denunciato, alcune avevano cambiato casa, niente da fare. Le ha rintracciate nonostante le denunce, nonostante evidentemente la mancata protezione, è andato, ha sparato a una, poi ha fatto 150 chilometri, ha dato appuntamento a un'altra, alla quale aveva mandato un messaggio 2 giorni fa, vengo e ti ammazzo, è andato, l'ha ammazzata, ne aveva cercate altre 2 di ex sue donne del passato, ma a quel punto, visto che si era capito il piano folle, i carabinieri hanno protetto queste 2 donne che lui stava cercando. Prima di suicidarsi è andato anche a un bar, era sporco di sangue, ha raccontato il barista, gli ho chiesto era ferito e lui ha risposto no, sorridendo, ora vado ad ammazzarmi, e così ha concluso. Che dire, ultima segnalazione è questa, c'è una gran polemica che oggi cavalcano Libero e Il Giornale, pare che Siena sia molto polemica, e che è questa, cito solo il titolo, San Giorgio con la Kefia, sfregio al Palio di Siena, il consueto drappellone è stato fatto disegnare da un artista libanese che ha fatto, ha messo San Giorgio, l'ha raffigurato con una Kefia in, diciamo, in abiti musulmani. Grande polemica, immagine shock sul drappellone di Siena, la Lega in rivolta, i musulmani ci scippano i nostri simboli più cari. A pagina 15 del Giornale, ma anche in prima di Libero, a firma di Antonio Socci. Ci fermiamo, giornalisti in piazza contro la legge intercettazioni, fanno bene secondo voi? Votate su radio24.it, ora il GR. Le 8 e 18 minuti, eccoci qui cari ascoltatori, nuovamente in diretta, c'è la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah. Ciao. E la voce? Dove è finita stamattina? Così l'hai lasciata a casa? Nei cassetti. Sì. Alessandro, te li ricordi i furbetti del quartierino? E come no? Ci siamo divertiti un po'. Spettacolare con, battuta. Di Ricucci, se non ricordo male. Esatto. Lasciamo stare. Noi stamattina ne abbiamo individuati un altro tipo. Gli stupidi furbetti. Adesso senti un po' che cosa ti racconto. Parliamo di RC Auto. Sì. Allora, abbiamo spesso denunciato questa situazione, in realtà più che farlo noi lo fanno le istituzioni, le autorità competenti. Il prezzo medio dei premi assicurativi in Italia per assicurare la propria auto continua ad incrementarsi, a crescere, e pesa senz'altro sulle famiglie. Alle base di questa situazione troviamo un quadro non certo roseo anche per le agenzie assicurative, che sono in difficoltà soprattutto in alcune regioni italiane. La causa? Lo SNAI, il Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, vuole attirare l'attenzione su quello che definisce un malcostume italiano, il malcostume appunto, come abbiamo detto, degli stupidi furbetti. Allora, di cosa stiamo parlando? È un'iniziativa originale, ma in realtà dal nome originale, ma è una campagna estremamente seria. Questa mattina ci spiega tutto Giovanni Metti, presidente nazionale di SNA. Presidente, buongiorno, in diretta da Bari questa mattina con noi di Radio 24, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, lo SNA, dicevamo, lancia stamattina a Bari la campagna Stupidi Furbetti, con un convegno che si svolgerà fra un paio d'ore, una campagna che era partita proprio dalla Puglia già in febbraio e adesso in sostanza viene istituzionalizzata a livello nazionale. Presidente, perché stupidi e perché furbetti? A chi ci riferiamo, anzi a chi vi riferite? Dunque, noi abbiamo naturalmente appoggiato e fatto nazionale questa iniziativa e questo convegno che si svolge stamattina a Bari e si riferisce in particolare a stupidi furbetti e coloro che pensano che trarre un piccolo vantaggio a seguito di un incidente stradale che riguarda soprattutto le lesioni personali, poi fa ricadere su tutta la collettività un costo delle assicurazioni così esagerato che diventa persino difficile potersi assicurare. Cosa procura questa situazione? Cosa vogliamo mettere in evidenza noi? Vogliamo mettere in evidenza che se il costo delle polizze di assicurazione, dei premi di assicurazione, viene calcolato sui costi, più i costi diventano elevati e più evidentemente i premi diventano elevati. Quindi ciò che si deve pagare per potersi assicurare diventa un costo molto molto elevato. Negli ultimi anni si è visto che il crescere delle polizze di assicurazione è stato sempre di due cifre per ogni anno. No? Allora, tra l'altro questo ci ha portato anche, Presidente, lo volevo ricordare, è stata la denuncia molto forte che ha fatto l'ISVAP qualche settimana fa nella sua relazione annuale, il Presidente Giannini: noi paghiamo in Italia il triplo di quanto non si paghi in media in altre grandi economie dell'Europa, in Francia, in Germania e in Spagna, e questo si deve anche purtroppo ai fenomeni di per esempio falsificazione dei contrassegni, poi arriviamo anche a questo, e comunque il malcostume che per esempio porta molti a, per un colpo di frusta come al solito, farsi mettere il collarino e quindi farsi liquidare in maniera molto salata dalle assicurazioni e tanto altro. Però questo problema, e anche questo l'abbiamo denunciato molte volte, è forte purtroppo soprattutto al sud. La situazione della Campania, Presidente, la conosciamo molto bene, però la Campania parte dalla Puglia. Sì, diciamo che la situazione si verifica in alcune aree in particolare del meridione d'Italia, però ci tengo bene a precisare che non è soltanto una situazione che si verifica nel meridione, certo. È purtroppo una situazione che a macchia d'olio si verifica, a macchia del Pado si verifica un pochino su tutto il territorio nazionale. Noi dobbiamo mettere in evidenza che bisogna fare qualche cosa a livello istituzionale per evitare che ci sia questo fenomeno di ricorrere così spesso al risarcimento delle lesioni, dove sono coinvolti tutto un insieme di entità. Non è soltanto un problema di colui che che fa la denuncia per una lesione, ma bisogna che la lesione venga accertata nel modo giusto, che non ci siano persone che si prestano a fare in modo che questo accertamento sia esageratamente elevato al fine di ottenere un risarcimento che non è dovuto. Presidente, però l'ISVAP dice che i costi dell'RC auto in Italia sono molto elevati anche perché le strutture liquidative delle compagnie di assicurazione a volte sono un po' complicate, un po' lunghe. E allora lei, chiedendo questi ulteriori accertamenti per verificare che si abbia diritto alla liquidazione del sinistro, non comporterà ulteriormente nuovi costi per le compagnie di assicurazione e quindi tutto sommato poi il risparmio sull'RC auto non arriverà mai? No, secondo me il problema, sicuramente il problema dei costi della liquidazione per cui le compagnie lamentano questa situazione che lei ha denunciato è assolutamente vero, però se noi vogliamo riportare il costo al reale risarcimento, quello che è realmente dovuto, dobbiamo intervenire sulle frodi. Per intervenire sulle frodi bisogna fare una delle cose principali della quale anche si sta occupando la sesta commissione finanze della Camera, che è quella di mettere in atto un'agenzia antifrode che permette l'incrocio dei dati per andare a realizzare un'indagine, di andare eventualmente a scoprire quali sono anche quei sinistri che vengono ripetuti nel tempo e che danno origine a questa lievitazione dei costi. Il problema che riguarda l'aumento dei costi delle compagnie per i sinistri ha portato questo fenomeno all'abbandono del territorio, che noi riteniamo molto dannoso, questo abbandono del territorio, perché il sistema liquidativo messo in atto attraverso il call center e non il presidio del territorio, l'abbandono da parte delle agenzie perché le compagnie se ne vanno da questo territorio, certo, si ha innescato un meccanismo che negli ultimi tempi non c'è più nemmeno quel iniziale controllo che c'era anni fa, per cui si è arrivati ad una liquidazione praticamente a richiesta e quindi si paga, e cosa succede? Che poi le compagnie pagano quello che gli viene richiesto senza contrastare più di tanto, di conseguenza poi il costo medio viene elevato e si trasferisce sul premio di assicurazione. Certo, oltretutto, questo va assolutamente evitato. Oltretutto da Bruxelles ci hanno detto che c'è l'obbligo a contrarre, perché queste sono delle specifiche normative europee, e sulla base di quello che lei ci sta raccontando, siccome ampie aree del sud in realtà le agenzie di assicurazione scappano, le compagnie scappano, scappano, noi stiamo anche violando una normativa europea. Presidente, ci spiega, siccome mi rimane veramente un minuto e mezzo di tempo, quindi poco, quali strumenti di comunicazione utilizzerà il progetto Stupidi Furbetti? Quindi come vorrete arrivare anche al territorio, ai consumatori, ai cittadini, alle famiglie? Noi vogliamo arrivare, prima di tutto, a fare in modo che ci sia il presidio del territorio, è giustamente quello che ha detto lei, che si deve e c'è l'obbligo a contrarre, perché dobbiamo ricordare a tutti quanti che l'obbligo dell'assicurazione sulla RC auto è un obbligo di legge e quindi deve essere rispettato da tutti, sia dai cittadini che sono obbligati ad assicurarsi, sia dalle compagnie che non possono lasciare a se stesse certi territori, perché in quei territori si diffonde anche il fatto di non assicurarsi, di andare a comprare contrassegni falsi che non hanno sottostante un'assicurazione, infatti, che fa finire che poi attraverso il fondo vittime della strada, finanziato sempre dalle assicurazioni, va comunque poi a pagare e quindi deve aggravare i costi. Noi vogliamo fare in modo che ogni attore di questo, il governo, le associazioni, gli agenti di assicurazione, l'ISVAP, l'antitrust e tutti quanti facciano in modo che su queste zone si venga a verificare un giusto risarcimento, che non si dia spazio ai risarcimenti falsi e che in questo modo si possa arrivare ad un costo controllabile e sicuro, per cui a questo è il mezzo principale a fare in modo che i costi di risarcimento diminuiscano e che quindi si ritorni ad un premio di assicurazione che equo per tutti, certo, e quindi si possa anche creare quel mutualismo che il settore assicurativo ovviamente sponsorizza molto caldamente. Presidente, io la devo salutare, buona giornata e buon convegno, presto. La mutualità non viene più esercitata in Italia perché non ho tempo di affrontare questo argomento, magari ci ritorniamo un'altra volta, mi scusi. Presidente, devo salutarla. Buona giornata, Alessandro. Arrivederci. Grazie tante lei, di nuovo, buongiorno. La mutualità, ho detto mutualismo, sarà la stessa cosa, la mutua, il medico della mutua. Inventato un termine nuovo. I saldi a Salva Danaio alle 12. Ciao, i Alessandro. I saldi, il tuo gran classico. Bene. 8:31 minuti, allora il giorno in cui molti giornalisti andranno in piazza, e non solo giornalisti, per protestare contro la legge, il disegno di legge sulle intercettazioni, a questo dedichiamo il sondaggio di oggi. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Giornalisti in piazza contro il disegno di legge sulle intercettazioni, una manifestazione che condividete, dovete votare su radio24.it oppure se volete 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Ricevo anche da Luca da Bergamo al 349-238-6666 questo messaggio: ma cosa manifestate voi giornalisti? Pigliate dei gran soldi, avete i privilegi per fare che cosa? Tasto destro, copia e incolla con l'ANSA, vale a dire l'agenzia di stampa. Ma fatemi il piacere. Franco Siddi, buongiorno. Buongiorno. Il segretario nazionale dell'FNSI, il sindacato dei giornalisti. In piazza perché c'è davvero questo rischio di svolta autoritaria, come voi avete definito? Ma il contenuto della legge assume questo sapore, non c'è dubbio. E in piazza non ci sono, come avete detto, solo i giornalisti, ci saranno soprattutto i cittadini. I giornalisti, chiedo scusa, in fondo sono una comunità di piccoli numeri, 30.000, 40.000 che lavorano, quindi il problema che si pone è il problema della stampa, della disponibilità dell'informazione necessaria per farsi libere opinioni, dell'informazione necessaria per capire come vanno esattamente le cose, per capire com'è il paese in ordine alla sicurezza, in ordine alle vicende politiche, in ordine agli affari politici, quelli puliti e soprattutto quelli meno puliti quando finiscono sotto la lente della magistratura. Tutto questo si tenta di negarlo per legge, di impedirlo per legge, perché si parla di intercettazioni, ma in realtà è noto, la legge prevede che non si parli delle inchieste giudiziarie finché non si arriva al dibattimento pubblico in aula. Per 3-5 anni ci sarebbe il silenzio tombale sulle inchieste, pensate alle vicende anche di questi giorni. Mi pare che quindi ci sia una privazione di libertà per tutti i cittadini, una privazione di un bene, l'informazione, che è un bene pubblico, indisponibile per il governo, indisponibile per i proprietari dei giornali, indisponibile anche per i giornalisti, se non affinché i giornalisti lo mettano a disposizione dei cittadini. Quando il copia e incolla del lettore, diciamolo con chiarezza anche lì, ma ammesso e non concesso che il giornalista lavorasse con l'ANSA. L'ANSA è una fonte primaria di informazione, è fatta da giornalisti, non è fatta da passanti per strada che origliano. Sì, sì, certo, certo. No, infatti è una provocazione, ma insomma, Siddi, noi le abbiamo chiamato contro, così, visto che tanti giornalisti, ma non solo, oggi saranno in piazza Navona, la manifestazione principale a Roma, abbiamo chiamato contro due direttori di giornali che la pensano in modo un po' diverso. Intanto saluto Piero Sansonetti, buongiorno Sansonetti. Buongiorno a voi. Direttore degli Altri, ma ieri ha firmato un pezzo al Vetriolo sul Riformista, magari qualcosa provo a leggere. E tra poco recuperiamo anche, credo che sia caduta la linea, con Mario Secchi, direttore del Tempo. Intanto Sansonetti, ieri lei ha scritto questo sul Riformista: e così i giornalisti italiani domani, cioè oggi, daranno questo bello spettacolo, sfileranno uniti senza distinzione di colori politici per protestare contro una legge che non c'è, che non è imminente, che probabilmente non ci sarà mai e che darebbe comunque un briciolo di fastidio se approvata la categoria, una volta si diceva la corporazione. Cos'è, uno sciopero di corporazione, con tutto ciò che implica di negativo? Lei lo vede così? Beh, mi pare che non ci sia dubbio. Sciopero dei giornalisti che non vogliono che gli sia tolto questo strumento professionale che è la pubblicazione dell'intercettazione, e che naturalmente, diciamo, semplifica molto il nostro mestiere. Per esempio, rispetto a quando io ho 60 anni, quando facevo il giornalista 30 anni fa, il giornalismo giudiziario italiano era molto forte, era un giornalismo d'inchieste, bisognava trovare le notizie, bisognava cercarle, bisognava trovare soprattutto, sa, quella cosa che non si usa nemmeno più, si chiamava, la parola era riscontri. Cioè, quando una fonte ti dava una notizia, tu dovevi riscontrarla e poi la pubblicavi. Mi ricordo l'Unità, io stavo all'Unità, una volta pubblicò una notizia che riguardava il ministro Scotti senza riscontrarla. Pare che non fosse vera o comunque non era provata. E si dimise il direttore, il vice direttore, il condirettore e quattro relatori capo. Ha combinato un disastro. No, io non c'entravo niente. No, raccontavo cosa fece l'Unità. Pensi che cos'era? Adesso si prende un'intercettazione, si sbatte sul giornale, si annienta una persona che nel 90% dei casi poi risulterà innocente. Naturalmente il nostro mestiere diventa molto più semplice, il giornalismo d'inchiesta non esiste più, si pubblicano intercettazioni e buonanotte, e cosa che in gran parte del mondo non avviene, perché poi se chiede ai corrispondenti esteri tutti ti raccontano che nei loro paesi questo non si può fare. E tutto questo sarebbe libertà di stampa, non so se mi spiego, è una protesta corporativa di una del resto quando io ero ragazzo e si faceva il sindacato, mi ricordo che la controparte erano gli editori. Questa volta invece i leader della protesta sono Carlo De Benedetti e Rupert Murdoch. Cioè sono due editori, non sono loro i leader, perché naturalmente anche per gli editori questo sistema, che invece di fare giornalismo si pubblicano, ha ragione, non ha sbagliato la parola ANSA, no? il lettore, ma ha ragione, il copia e incolla, si prende l'intercettazione. Io non so chi me l'ha mandata, non so perché, so che è una manovra per far fuori qualcuno, ma non so neanche esattamente chi. Non ho nessun controllo dell'operazione che sto facendo e pubblico. Credo che l'intercettazione sia la fine del giornalismo, non sia una. Naturalmente rende più facile il mestiere giornalisti, e questo spiega una protesta che è in maniera evidentissima, non credo che si possa discutere su questo, ma è una protesta corporativa. Vediamo se la pensa così anche Mario Secchi, direttore del Tempo. Buongiorno direttore. Se è dello stesso avviso, così poi abbiamo accerchiato Siddi, insomma, questi due pareri molto critici, e potrà replicare. E allora, dice Sansonetti, una protesta corporativa di una corporazione che si vede privata di uno strumento semplice, comodo, ma che poi è un modo semplicemente per nell'articolo c'era anche scritto per sputtanare le persone. Sì, ma dunque cerco di riportare il dibattito sulla terra, mettiamola così. Visto che sia la posizione della FNSI, l'ultima assunta in particolare, sia quella di Sansonetti sono, come dire, estreme, no? I due poli opposti. Io invece cerco di mettermi al centro della faccenda, che è molto semplice. I giornali devono dare le notizie e, come lei sa Milan, io le do tutte. Contemporaneamente bisogna tutelare i diritti della difesa, e sono diritti importanti sanciti dalla Costituzione all'articolo 15, e noi giornalisti dovremmo ricordarci che l'articolo 15 viene prima dell'articolo 21, quello sulla libertà di espressione, viene dopo quello della libertà della corrispondenza, della sua segretezza e così via, e quindi della privacy. E poi ci sono i diritti di chi deve fare le indagini. Allora, i giornalisti quindi hanno bisogno di dare le notizie, ma non è che le notizie debbono per forza coincidere con la pubblicazione delle verbalate, no? Sì. Sequamente, come suol dirsi. Non c'è bisogno di questo. Bisogna dare le notizie. Quindi, una volta salvaguardato il diritto sacrosanto del giornalista a dare le notizie, la domanda è: ma procedere alla pubblicazione di pagine e pagine e pagine di intercettazioni che spesso sono decontestualizzate, non aiutano a capire granché, e altrettanto spesso e volentieri sputtanano, mi scuso del termine, la vita privata di molte persone che con quell'inchiesta magari non hanno niente a che fare? È buon giornalismo? Punto di domanda. Allora, io mi sono trovato nella mia carriera a dover decidere tantissime volte sulla pubblicazione o no di brogliacci e intercettazioni che riguardavano la vita privata delle persone. E sempre, o quasi sempre, spero di averlo fatto sempre, non le ho pubblicate. Ma tanto c'era un altro, c'era una, c'era un altro che le pubblica. Quelle sulle indagini. Ma c'era un altro che le pubblica, questo è il problema. E non fa bene. No, lo so. E non fa, però, non fa bene, questa... perché abbiamo dei casi anche drammatici. È questa la questione, appunto, però questa però la questione centrale, cioè sul fatto anche che dice Sansonetti, però qua vorrei la replica di Siddi. Oggi quando io Siddi leggo sul Sole 24 Ore che ieri il procuratore Piero Grasso dell'antimafia ha definito questo progetto di legge irragionevole, devastante, foriero di gravi disagi per gli uffici giudiziari, effetti gravissimi nella lotta alla criminalità organizzata, una legge incoerente, un buco nelle indagini contro anche chi spaccerà droga, rapine, clandestinità, usura, corruzione, cioè questo secondo me è il problema. Chi se ne frega di difendere le lenzuolate di intercettazioni sulla stampa, o sbaglio? Ma la legge nel suo complesso, voi mi avete chiesto la parte che riguarda l'informazione, ma la legge nel suo complesso, come dice Grasso, è una legge che favorisce l'illegalità. È una legge che da un punto all'altro è la legge della illegalità, perché priva e affievolisce la sicurezza dei cittadini, ammorbidendo, rendendo debolissimo uno strumento di indagine importante, lo dice Grasso, non lo dico io. È una legge che è sbilanciata dal punto di vista dei diritti dei cittadini all'informazione, in favore di una riservatezza da tutelare a priori, lo ha detto ieri il garante della privacy, Pizzetti. È sorprendente e sconcertante Sansonetti nelle cose che dice. Noi non stiamo qui, nessuno di noi va in piazza per dire, in che senso, per rivendicare il diritto di sbrecciare la vita delle persone. Noi abbiamo depositato l'altro ieri alla Camera, Commissione Giustizia, delle proposte precise che inducano la responsabilità del giornalista, è un giornalismo responsabile, un giornalismo etico, che non nasconde le notizie, perché questo è veramente impensabile, allo stesso tempo, diciamo così, garantisce la tutela delle persone. Ma questa tutela nelle inchieste, nelle intercettazioni, si deve esercitare a monte, nell'udienza filtro, attraverso la quale si espungono gli atti che riguardano punti sensibili, elementi sensibili della vita delle persone, o i dati che riguardano conversazioni relative a persone. Ma al di là dell'aspetto della vita personale delle persone, della vita privata delle persone, sì, di lei è d'accordo quando dice Sansonetti che non si dovrebbero pubblicare neanche le intercettazioni, perché sono verbali che escono dalle procure, io me le procuro in qualche modo. Su questo non sono d'accordo con lui. Il giornalista sa che cosa deve essere pubblicato e cosa non deve essere pubblicato. Il giornalista serio. Ci possono essere intercettazioni che non vanno, e altre che vanno pubblicate per capire esattamente come il processo o come la giustizia si sta amministrando, magari non bene. Se fatto correttamente, non da buca delle lettere, come talvolta purtroppo è avvenuto, e non può essere però qualche abuso esercitato a causare una legge ingiusta e illiberale. Questo è il punto. Si fa un servizio pubblico, si riconsidera l'informazione un bene pubblico. Questa legge è una legge fatta per la privacy della casta e basta. Una legge per la casta, Sansonetti. Per la privacy della casta. Per la privacy della casta, questa è la sua posizione molto chiara. Sansonetti, lei diceva appunto questa idea che dalle procure, dalle centrali di spionaggio vengano trasferite direttamente all'edicola tramite i giornali, queste le notizie, le intercettazioni, questo non le piace. Però ci possono essere delle intercettazioni che possono far capire che qualcosa non va e quindi è dovere anche pubblicarle. Cioè è una fonte anche quella, se è un verbale di procura o no. Sì, noi ci abbiamo questi tre problemi. Uno, che il giornalismo italiano ha dato una prova pessima di sé in tutti questi anni e non ha in nessun modo esercitato l'autocontrollo, come avviene in molti altri paesi dove non c'è bisogno di queste leggi, perché c'è un giornalismo molto più avanzato, più indipendente. Noi purtroppo abbiamo una storia del giornalismo che non è una delle migliori dell'Occidente, penso che sia la peggiore, non è mai stato molto indipendente. Negli ultimi tempi è peggiorato moltissimo, è diventato questo giornalismo da trincea, o tutti con Berlusconi o tutti con De Benedetti, la lotta fra questi due editori che ha praticamente costretto tutto il giornalismo italiano. È insopportabile questa cosa, sì. Tutto il giornalismo italiano a schierarsi, siamo dei soldatini agli ordini o dell'uno o dell'altro, e quindi è inutile che raccontiamo di una categoria, è la categoria del giornalismo peggiore d'Europa. Due, l'articolo 21 della Costituzione prevede la libertà di stampa, non la libertà di spionaggio. Noi adesso stiamo parlando di libertà di spionaggio. Tre, la legalità è un bene molto prezioso, ma bisogna capire che non è l'unico bene che esista, perché se l'unico bene che esiste in una società è la legalità, allora conviene lo Stato totalitario, perché nella Germania Est, diciamo, dove le intercettazioni si facevano molte, non so se avete visto il film, quel film bellissimo, La vita degli altri, la legalità era altissima, in paesi come la Cecoslovacchia o la Germania Est fino a prima della caduta del muro, state tranquilli che la legalità era altissima, ma non è quella la società alla quale noi aspiriamo, quindi non possiamo credere che qualunque bene porta ad aumentare la repressione è un bene sociale, spesso è una schifezza. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Eccoci alle 8:48 minuti, c'è da dire che il 67% per ora di chi vota su Radio24.it dice giusta la manifestazione, diciamo manifestare contro questa legge. Voglio sentire un paio di ascoltatori, me li sono persi. Eccolo qua, Paolo dalla provincia di Como, buongiorno. Buongiorno, sì, ecco, io volevo solo intervenire in maniera molto semplice, dire che secondo me è stato spostato l'oggetto della discussione, perché il problema non sta tanto nel limite giornalistico di pubblicare o non pubblicare, quello può essere regolamentato più semplicemente, il problema sta nel limite di indagare da parte della magistratura. È così, cioè, Paolo, posto questi limiti, no, è così, è quello che dico io, cioè è un finto problema, non che non sia un problema, ma è un finto problema, o non è il problema principale quello di pubblicare o no, ma capire se questa legge limita per i magistrati un utilizzo di uno strumento che molti magistrati dicono è importante. Importante. Lei la pensa così, il procuratore legge Grasso, bavaglio. In questo è la legge bavaglio, lei dice. No, vabbè, sì, ma io ho anche questo slogan bavaglio, ma non c'è bavaglio di nulla, ma poi con l'informazione attuale basta fare dei siti all'estero, ma non si bloccherà nessun tipo di intercettazione, cioè ci sono mille modi nella società moderna di far sapere le cose, ma figuriamoci se si arriverà a bloccare, non si bloccherà neanche una riga di quello delle intercettazioni che sono pubblicabili oggi. Mauro da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Infatti io la penso nello stesso modo. Oggi società della era della comunicazione è praticamente impossibile bloccare le notizie. Io invece vorrei dire un'altra cosa, e qui parlo anche avendo maturato un'esperienza come editore in passato. E si dimentica che noi praticamente forniamo delle informazioni che vengono acquistate, almeno nel caso della stampa, dei consumatori che sono i nostri lettori. Dovremmo svolgere questa attività con maggior coscienza, perché noi vendiamo un prodotto. Se questo prodotto è reale, noi forniamo un servizio alla società che acquista il nostro lavoro, leggendo i quotidiani, eccetera. Se noi forniamo, mi si permetta il termine, monnezza, cioè io riempio le pagine indifferente come e dico ciò che sento nella mia libertà di pubblicare, gente non lo compra. No, la gente non lo compra, non so. Tanta gente compra, poi sta all'obiettività, alla capacità di valutare, di ecco, però dovrebbe esserci secondo me maggior responsabilità proprio nel fornire dei prodotti che siano attendibili. A me dispiace alle volte comprare, ecco, uso proprio questo termine, sì, usufruire di prodotti non attendibili, non li compri. No, certo. No, nel senso, voglio dire, lei si presenta in edicola, troverà 10-12 quotidiani nazionali, tutti i quotidiani locali, se qualcuno pubblica secondo lei monnezza lo compri, se valuta che è monnezza il giorno dopo non lo compra più. Non lo so, secchi, sono brutale in questo a dire, no, oppure ci dovrebbe essere un dovere da parte dei giornali di essere autore, certo, sì, di non... Intanto la differenza la fa il mercato, voglio dire. Che le cose nel settore dell'editoria non siano rose è testimoniato dal fatto che noi per la prima volta nel settore dei quotidiani scendiamo sotto i 5 milioni di copie di media giornaliera venduta. E io sono sicuro che non è un problema solo di recessione economica, ma anche di qualità del prodotto. Ed è chiarissimo che il mercato alla fine dei lettori, come qualsiasi mercato non regolato dallo Stato per così dire, si comporta di conseguenza. A proposito di lettori, che ne pensa dell'invito di Berlusconi a scioperare da parte dei lettori coi giornali? Una buttada oppure, come l'ha presa l'FNSI, una cosa molto molto seria e grave? Ma Berlusconi lo dice praticamente da quando è sceso in campo. Ho capito, cioè, ma cioè voglio dire che dov'è la novità? Ma voglio dire, Berlusconi non ama i giornali, lo sappiamo. Ha invitato più volte a non leggere i giornali, che poi è anche paradossale visto che la famiglia Berlusconi è anche l'editore di carta stampata. risulta così. È per me, ovviamente, visto che io faccio il direttore di giornale, inaccettabile, nel senso che mi fa ridere. Aggiungo di più non sono d'accordo neanche con lo sciopero della FNSI indetto per l'8 di luglio, e le dico perché. Il 9, perché l'8 e il 9, adesso 9, non ricordo 9. Più la 9, allora, 9. Ma, e sa perché non sono d'accordo? Ma come? I giornalisti dicono di voler fare la battaglia sull'informazione libera, dobbiamo scrivere tutto e così via, e poi addirittura scioperano e quindi di fatto aiutano Berlusconi a dire non leggete più i giornali. Andiamo direttamente in edicola. Siddi, perché avete confermato il 9 luglio? Siddi. L'abbiamo confermato per dare un segno dell'indignazione della categoria, questa volta sì, perché oggi non siamo in sciopero, oggi andiamo in piazza insieme ai cittadini. Il giorno 9 vorremmo realizzare una forma di silenzio rumoroso che segnali all'opinione pubblica nazionale e internazionale un problema grave che sta accadendo. Io pure sono per la pubblicazione e per parlarne il massimo possibile, ma poiché gli editori hanno cercato un'altra strada, e non hanno fatto una strada comune, pur condividendo la protesta, condividendo la negatività di questa legge, che è una legge, io lo dico per Sansonetti, sono veramente sconcertato dalle sue parole. La legalità in un sistema democratico è data dalla possibilità che la legge che le leggi assicurino che gli abusi dei prepotenti possono essere, come dire, giudicati, possono essere esposti, possono essere conosciuti, possono essere rimandati indietro. Già due volte ha detto di essere sconcertato Sansonetti, qui c'è un problema, molti messaggi ci arrivano dicendo sto con Sansonetti for president, addirittura mi arriva Sansonetti for president, mi arriva un messaggio, glielo giro Sansonetti, però qua Siddi si è detto due volte sconcertato dalle sue parole, dalla sua posizione. Io non posso farci niente, mi dispiace che sia sconcertato, mi dispiace per esempio che non sia sconcertato del fatto che tutti i giornali italiani, tutti sulla vicenda Fiat Pomigliano erano da una parte sola, lì un po' di bavaglio io l'ho sentito. Beh, tutti gli editoriali erano uguali. Il manifesto, ma forse il manifesto, sì, ecco, due o tre giornali, diciamo, manifesto, Liberazione, ma non andiamo oltre. Lì non si sentiva, diciamo, lo scontro fra De Benedetti e Berlusconi, lì ho visto che gli editoriali erano tutti uguali, e come mai? E lì il bavaglio non c'è, lì non lo sentono i giornalisti il bavaglio degli editori, non lo sentono mai, o quando si occupano di immigrazione non sentono mai il bavaglio, no, lo sentono solo quando dici scusa, tu non è che puoi prendere una lenzuolata di intercettazioni forse su una persona innocente e sputtanarla e rovinargli la vita, su quello sentono il bavaglio. A me non mi sembra che i giornalisti italiani siano in lotta contro le prepotenze, francamente. Tra l'altro, spero che siano tutti al servizio. spazio dei prepotenti. Tra l'altro credo, e questo è anche il messaggio, c'è la prigione, il carcere, nessuno, ma questo fortunatamente non lo dico con ironia, nessuno metterà mai in prigione, in galera, un giornalista perché pubblica un'intercettazione, anche quando ci sarà questa legge. Questa è la mia previsione, come al solito, essendo la mia previsione, vale poco più di zero. Allora ringrazio Gaia Romani in redazione, Filippo Reggi in regia, e che dire, do la linea a Oscar Giannino col suo graffio di gatto, è già pronto, e noi ci troviamo domattina alle 7:30.